Era un bambino silenzioso con le ginocchia un po' vicine e le mani piccole e belline. E ti guardavo un po' sorpreso, ti sceglievo per giocare. Da quel giorno avevi un nuovo amico. E ogni volta prima di un esame o prima di un provino, se avessi avuto un po' paura, ti avrei avuto lì vicino. Quel giorno c'erano esperti osservatori, campioni e vecchie glorie, nomi sentiti alla televisione, per la partita più importante, quella in cui sembrare grande, quella dove non avere esitazioni. Ma questo io non lo sapevo, pensavo a divertirmi come sempre. Era una partita come le altre, una partita come le altre. Scendemmo in campo noi ragazzi, un po' da tutta Italia, scelti in mezzo a tanti altri, tutti forti e convincenti, decisi a dare il meglio nella selezione per andare avanti. Io mi battevo in mezzo al campo, dribblavo, mi smarcavo, difendevo, facevo i miei passaggi intelligenti, i miei passaggi intelligenti. Vedi, non è facile vincere, non è facile. Vedi, devi sempre crederci, ci devi credere. E anche se non ti scelgono, devi sempre dare il meglio di te. Vedi com'è facile perdersi, com'è facile. Vedi com'è facile perdermi senza di te. E anche se non mi scelgono, io lo so che sarai fiero di me. Tuo figlio coraggioso e tu mio padre ragazzino, le braccia forti ma le spalle da bambino. Io ti guardavo un po' sospeso, ti cercavo per parlare, ogni giorno ti cercavo come amico. Quella volta andammo insieme alla partita, davanti a te segnai il gol che si ricorda per la vita, che si ricorda per la vita. Andasti a piangere in disparte perché nessuno ti vedesse, quanto orgoglio in quello che facesti. Non era certo la partita più importante, non ero mica fra i professionisti. Ma tu di certo questo lo sapevi, mi dicevi pensa sempre prima a divertirti. È una partita come le altre, una partita come le altre. Vedi, non è facile crescere, non è facile. Vedi, devi sempre crederci, ci devi credere. E anche se non ti scelgono, devi sempre dare il meglio di te. Vedi com'è facile perdersi, com'è facile. Vedi com'è facile perdermi senza di te. E anche se non mi scelgono, io lo so che sarai fiero di me. Vedi com'è facile perdermi senza di te. E anche se non mi scelgono, io lo so che sarai fiero di me. Ero un bambino silenzioso con le ginocchia un po' vicine, le mani piccole e belline. E ti guardavo un po' sorpreso, ti sceglievo per giocare. Da quel giorno avevi un nuovo amico. E ogni volta prima di un esame o prima di un provino, se avessi avuto un po' paura, ti avrei avuto lì vicino.